29. M'affacciai al balcone per vedere uscire i piccini che nel traversare la strada mi salutavano sventolando i berretti. Li vidi entrare correndo nei giardini, seguiti a piccolo trotto dalla fida Elisa. Io rimasi appoggiata al balcone, placida e pensierosa, godendo dell'aria fine e frizzante che mi baciava il viso e del tepore del sole sulle mie spalle. E il pentimento dei miei passati dubbi mi invase. Guardai fiduciosa e lieta verso l'avvenire. Sì, Kamarowski m'amava. Kamarowski era generoso, nobile, onesto. La sua fiducia completa in me, che talvolta mi irritava, oggi che non ero nervosa e irrequieta, mi sembrava il più alto omaggio di un nobile cuore. E commossa mi giurai di esserne per sempre degna. Tra meno di un anno sarei stata moglie di questo patrizio gentiluomo, protetta dal suo nome, riabilitata dalla sua dignità, sana e salva in alto del suo amore. Tioca avrebbe ritrovato in lui un padre affettuoso e saggio e nel piccolo Grania un fratello diletto. Congiunsi le mani sul petto e sospirai un'inarticolata preghiera al cielo, una preghiera fatta di pentimento e di gratitudine. Un lieve rumore mi scosse. Era Kamarowski che, entrato nella mia camera, mi cercava. Allora anch'io entrai, chiusi il balcone e lo raggiunsi. Egli era fermo davanti al mio tavolo da toilette e teneva in mano la borsetta di cuoio nero. Che cos'è? Chiese casualmente. È tuo? La gran luce della finestra mi batteva piena e spietata sul viso ed io mi sentii impallidire. No, non è mio, balbettai. Difatti non te l'ho mai visto, rise. E rigirò il sacchetto tra le mani. Bisogna mandarlo giù al bureau. E si avvicinò al campanello. No, no, esclamai. No, lascialo pure. È di Elisa. E perché Elisa lascia le cose sue nella tua stanza? Poi, notando il mio pallore e il fremito delle mie labbra, si avvicinò. Che cos'hai, cara? Niente, niente, un subitaneo malessere, dissi io, e sedetti con le spalle alla luce e le ginocchia mi tremavano. Egli subito si chinò su me, inquieto e affettuoso. Ti senti male? No, non sarà nulla, dissi carezzandogli i capelli, un po' di stanchezza e il lungo viaggio. Oh, fiore mio, colomba mia, così delicata e fragile. E mi baciò teneramente in fronte. Poi suonò il campanello. Subito apparve un cameriere. Portate del cognac, presto, ordinò il conte. La signora non sta bene. In pochi istanti riapparve il cameriere col vassoio e Kamarowski, versando il cognac, gli disse: Prendete quella borsa e portatela di sopra nell'appartamento della governante. Io balzai in piedi. No, no, lasciatela! Dissi nervosamente, togliendo la borsa di mano al cameriere. Quello si ritirò, ma Kamarowski parve sorpreso. Che cosa c'è lì dentro? Chiese. Perché ti agiti così? Ma non mi agito! E serravo tra le mani l'aborrito elefante bianco. Non c'è dentro niente, proprio niente. Ma sì che è pieno di carte. E Kamarowski scherzoso palpava la borsetta. Che siano lettere amorose. Io riuscii a sorridere con le labbra arse e bianche. Sì, hai indovinato. E sarebbero di Elisa? O tue? Fece Kamarowski traridente e sospettoso. Oh, di Elisa! E risi anch'io. Poi, con un grande sospiro, sedetti, ma prima che il mio cuore potesse riprendere il suo battito normale, la ignara Perier si affacciò alla porta. I bambini sono di ritorno, signore, sono andati di sopra. Kamarowski, scherzoso, mi prese di tra le mani la borsetta e la fece dondolare in aria. Guarda, Elisa, guarda cosa ho qui! E rise. Elisa stralunò gli occhi e il viso le si coprì di un rossore violento, quasi paonazzo. Era assurdo e impressionante il suo modo di arrossire. Ah, rise il conte. Dunque vi sono dentro le tue lettere d'amore? Oh, no, signore, mormorò Elisa, arrossendo fino alle lacrime. Ma non è tua questa borsetta? Oh, no, signore, sì, signore. Kamarowski la guardò, poi guardò me e, vedendo le nostre espressioni, cessò di sorridere. Su, via, Elisa. Dimmi di chi è e che cosa contiene. Io cercai di farle cenno, ma il conte, alto e largo, si intrappose fra noi. Allora mi alzai con un sospiro di rassegnazione disperata e andai alla finestra. Ciò che deve accadere, accada. Udii la naufraga Elisa dibattersi tra le menzogne e finalmente lasciarsi andare alla deriva sulle rocce della verità. Che carte sono? Continuava a chiedere il conte. Non sono carte, sono denari. Disse ella finalmente. Denari? Vostri? No. Vi fu un momento di silenzio, poi Kamarowski disse: Non ci credo, voglio vederli. Nessuno gli rispose. Chi ha la chiave? Silenzio. Allora sentii un tintinnio. Kamarowski si cercava in tasca il temperino. Poi disse a Elisa: Potete andare. Elisa, lentamente, a malincuore, se ne andò. Udì un lieve scricchiolare. Kamarowski aveva tagliato il cuoio della borsetta. Ora udivo frusciare i biglietti di banca. Kamarowski li spianava sulla tavola e li contava, ciò che noi non avevamo mai fatto. Passò qualche momento. 35.000 rubli? Disse Paolo Kamarowski lentamente. Non capisco perché abbiate detto di essere senza denari. E nella sua voce vi era un gelo che non avevo udito mai. Non sono miei, dissi rauca e tremula. E di chi sono? Come rispondere? Dovevo tradire Prilukov e con lui me stessa? Mi decisi a dire ciò che in fondo era la verità. Non so di chi siano, sospirai. Di nuovo vi fu un lungo silenzio. Pensai, ora mi insulterà, forse mi percuoterà. Ma non accadde nulla. Kamarowski uscì dalla stanza senza parlare. Ah! La piovra di Wells teneva ancora i suoi tentacoli intorno a me. Prilukov, anche da lontano, dirigeva verso le procelle il mio destino. Raccolsi con mano tremante i biglietti sparsi sulla tavola e li ricacciai nell'odiosa borsetta. Ah, se avessi potuto rimandarli! Ma dove? A chi? A ieri Prilukov si era fatto chiamare Zeiler, ma ora dov'era? E chi era? Come potevo spedirgli tutti questi denari senza preavvisarlo e dove li avrei spediti? No, era mio destino trascinarmeli per il mondo nella esecrabile borsetta di Elisa. Mi coprii il volto con le mani, singhiozzando. Non udii bussare alla porta, non l'udii aprire. Quando mi voltai, vidi ritto sul limitare un giovane biondo, alto e sottile. Egli fece un passo verso di me, poi si arrestò, confuso alla vista del mio volto rigato di lacrime. Mi perdoni, disse, ed aveva la voce morbida e profonda. Chi cercate? Il conte Kamarowski mi aveva invitato a pranzare con lui. Mi chiamo Nicola Naumov. Mi chiamo Maria Tarnowskaja. Egli porsi la mano. 30. Il conte entrò poco dopo. Era tetro e crucciato, ma poiché al mattino aveva invitato il giovane amico a pranzare con noi, si sforzò a serbare le apparenze del buon umore e dell'ospitalità. Vi riuscì male. Sedette a tavola al mio fianco, ma torvo e accigliato non mi guardò mai e neppure mi parlò. Il giovane invitato parve stupito di quel contegno e, forse ricordando le mie lacrime di poc'anzi, posava sul mio volto i grandi occhi giovanili, eloquenti di simpatia e di pietà. Io rivolgevo talvolta la parola al conte, ma egli appena mi rispondeva ed io mi sentivo impallidire e arrossire per l'umiliazione. Il silenzio cadde finalmente imbarazzante e penoso su di noi. Io non trovavo più nulla da dire, avevo voglia di piangere. I dolori al capo e alle reni che tutto il pomeriggio mi avevano tormentata si erano inacerbiti e mi mordevo le labbra per non gemere forte. Mi alzai d'improvviso ed entrai nella mia camera. Trovai con mano tremante la boccetta della cocaina e per la prima volta da quasi un anno ne bevi un sorso. Poi tornai alla tavola. Kamarowski meditava con la testa bassa e la fronte corrugata, ma il giovine straniero alzò gli occhi d'oro dalle lunghe ciglia bionde e li tenne fissi su di me. Dopo alcuni istanti, per rompere l'insopportabile silenzio, egli mi parlò con la sua voce morbida e carezzante. Ieri è arrivato a Orelli il famoso astrologo Cheiro. Bisogna farsi dire la buona ventura da lui. Oh, davvero? Dissi io sorridendo, ed un tratto mi tornò alla mente il pronostico di quello strano indovino. Mi pareva ancora di udire le brevi parole profetiche. Bada, due uomini entreranno ancora nella tua vita. L'uno sarà la salvezza, l'altro sarà la rovina. Due uomini. Mi guardai al lato. Due uomini erano qui. Ma dunque il vaticinio si avverava. Qui, davanti a me, accanto a me, stavano forse l'uno e l'altro? Mi pareva di udire la voce nasale e sonnolenta di Cheiro. Tu sceglierai l'altro. Invasa da un senso di paurosa superstizione, guardai i miei due commensali, di cui l'uno doveva forse essere la mia perdizione e l'altro la mia felicità. Alla mia destra sedeva Kamarowski, arcigno, fosco, tetro nel suo lutto e nella sua ira contro di me. Dall'altra parte, il giovane ignoto dal viso raggiante e dai chiari occhi dorati mi sorrideva. Come una folgore, l'intuizione mi illuminò. Era questi la salvezza, Nicola Naumov, questo giovane sconosciuto nei cui occhi avevo letto una dedizione completa e immediata. Era colui che il fato mi mandava per ricondurmi alla gioia. Come dubitarne? Kamarowski, cupo, nero a testa bassa, mi pareva la personificazione del dolore e della sventura. Ed era precisamente lui che io avevo scelto. Egli era l'altro, il temibile altro, predettomi dall'indovino, ma io ero a tempo a ritrarmi, a frodare i fati, a sfuggire al mio destino. Tutta l'anima mia, assetata di gioia ancora, di passione ancora, si rivolse a Nicola Naumov. Certo, egli mi lesse quel subitaneo impeto nel viso perché trasalì e si chinò verso di me. Un lieve tremore gli contorse per un istante il volto e i suoi occhi oscillarono come per repentino abbaglio. Io lo vidi vibrare da capo a piedi come una corda tesa. A quell'immediato responso dei suoi nervi e ai miei, anch'io mi sentii scossa da un tumulto di eccitamento. Ero pazza, malata, malvagia, non lo so. So che la mia anima si promise a lui in quell'istante e so che egli mi comprese. Sì, il vaticinio si compieva. Quando Nicola Naumov si alzò a prendere congedo. Sapevo che sarebbe ritornato all'indomani, che lo avrei riveduto, e questo pensiero mi inebriava di una gioia così ardente, così folle, che anche Kamarowski ne fu travolto e rapito. Appena fummo soli, egli, che pur doveva sentire nel profondo della sua anima fremere il sospetto e l'ira contro di me, vedendomi così delirante di giovinezza e di letizia, mi cadde ai piedi. Ti amo, non chiederò nulla, non voglio saper nulla. E singhiozzava col capo nel mio grembo. Ma io pensavo a quello sconosciuto dagli occhi dorati che nel mio avvenire mi aspettava. E tutti i miei nervi esasperati si tendevano verso di lui. Un'ondata d'odio subitaneo, feroce e fisico per quell'uomo chino davanti a me mi travolse. Mi alzai di scatto e lo respinsi. Lasciami! Ansai. Non toccarmi! Va via! Egli si raddrizzò attonito, incredulo. Ma perché? Che cos'hai? Oh, che non voglio più, non voglio più vederti, non voglio che tu mi venga vicino, non voglio sposarti, voglio andar via e non vederti mai più. Ma tu sei pazza, che cosa ti ho fatto, Mura? Mura, perché parli così? La sua disperazione e il suo stupore non fecero che inasprirmi. Tu sei la rovina, tu sei la sventura per me, me l'hanno detto, lo so, lo sento e sarà così. Ma povera cara, che idee sono queste? Chi può averti detto una cosa simile? E piangeva il pover'uomo tenendomi strette le mani. Chi può volerti più bene di me? Chi potrà meglio proteggerti e difenderti, povera debole donna che sei? Ma io avevo la cieca ostinazione della follia. Quem Deus vult perdere, amentat. Il mio destino si compieva mentre io credevo di sventarlo. Lasciami andare! Le mie mani si torcevano nella sua stretta. Non voglio vederti più. Non voglio, non voglio. Ah, ma voglio io! Gridò a un tratto Kamarowski, serrandomi i polsi che mi parve volesse spezzarli, e i suoi occhi lunghi e languidi si aprirono e fiammeggiarono nei miei. Tu credi, perché sono buone mite, di poter giocare con me? Di poter fare di me il tuo balocco, il tuo trastullo? Tu credi di aver trovato in me, come in tanti altri uomini, un burattino di cenci? Ma ti sbagli. Ti sbagli! Urlò con uno scoppio di voce che mi atterrì. Tu ti sei promessa a me e devi mantenere la parola. Io non l'avevo mai veduto così perentorio e risoluto. Egli continuava parlando ad alta voce. E se tu sei ciò che io ti credevo, una dolce e buona creatura, io ti adorerò. Ma se tu sei una vipera, ti schiaccerò la testa. Fremetti. Abbassai il capo, sentivo volare i pipistrelli della follia entro il mio cranio e mi dicevo: Ah sì? Ah sì? Tu credi di tenermi, ma io ti sfuggirò. Quasi avesse indovinato il mio pensiero, egli mi disse, e aveva la faccia vicina alla mia, il respiro breve, e non credere già di sfuggirmi, non crederlo, io ti conosco, tu hai bisogno di essere domata ed io ti domerò, finché avrò vita, capisci? Finché avrò vita, tu non mi sfuggirai. Come dei lunghi spilli si infissero nel mio cervello malato quelle parole, e piano ripetei: Finché egli avrà vita, io non gli sfuggirò, finché egli avrà vita. Alzai gli occhi a guardarlo, poi riabbassai le palpebre e sorrisi. La furberia sottile della demenza si risvegliava in me. 31. Egli non se ne avvide, continuò a parlare con quell'alito rapido sulla mia faccia. Io so che tu hai fatto nella tua vita molte cose indegne. So che tu non sei come dovresti essere, ma ho pietà di te. Tu sei ammalata. Tu hai avuto intorno a te dei farabutti e dei vili. Io ti curerò, ti amerò, ti rialzerò. Se ho poca fiducia in te, ne ho molta in me. La mano di un galantuomo è più forte ad innalzare che la mano dei vigliacchi ad abbattere e a infangare. Io voglio soccorrerti, sventurata che sei, voglio salvarti, tuo malgrado. Mio Dio, perché non gli caddi sul petto? Perché non gli singhiozzai sul cuore la mia disperazione e i miei dubbi? Perché non abbandonai a lui la mia povera anima malata? Era questa l'ultima volta che la salvezza mi apriva il suo porto, ma io non lo sapevo. Come una navicella nel buio, veleggiai verso la procella. Egli parlava ancora. Io non ho voluto saper nulla del tuo passato, non per vigliaccheria, non per paura di trovarmi a faccia con altri, ma per paura della mia anima stessa, per paura di indietreggiare davanti a qualche tua bassezza, per paura di non amarti più, ma io voglio amarti. La mia missione, Maria Nikolaevna, è di soccorrerti e di salvarti. Tu non puoi con quei cari occhi e con quel sorriso dolce essere veramente malvagia, veramente pervertita. Tu non hai bisogno che di essere amata, ed io ti amerò. E mia madre, dolce donna, ti amerà, e le mie sorelle, candide anime, ti ameranno, e quando tu vivrai tra quegli affetti buoni, puri, semplici, ridiverrai buona e semplice e pura, anche tu. La voce gli si spezzò e saremo tanto felici. Etioca e Grania saranno felici e il tuo vecchio padre. Noi lo condurremo a vivere con noi. Come mai non pensi al tuo vecchio padre? Vedovo solo in quella deserta casa d'Otrada. Improvvise lacrime mi punsero gli occhi. Vedevo il mio vecchio padre coi suoi capelli bianchi e i suoi fieri occhi blu, il terribile Ororco ormai solo e desolato. Non c'era più nessuno che gli dicesse: papà, non fare il terribile Rourke. I singhiozzi mi strinsero la gola. Ma Kamarowski parlava ancora e la sua voce mi irritava, mi faceva male, mi ronzava nelle orecchie. Ero già stordita dalla cocaina e avrei voluto essere nel buio e nel silenzio, ma Kamarowski parlava, parlava, mi pareva che gridasse forte: perché? Perché? Perché corri il mondo come una pazza? Tutto a un tratto un velo si squarciò davanti ai miei occhi. Io dissi a me stessa: io corro il mondo come una pazza perché sono pazza. E queste parole, dette piano dentro di me, mi fecero ridere. Mi divertì l'idea che nessuno potesse sapere i miei pensieri. Mi immaginavo di essere una ragazzina discola che si nasconde in un armadio buio mentre tutti la cercano. L'armadio buio era il mio cervello ed io, tutta sola, vi avevo scoperto la pazzia. Oh, certo, ero pazza. Le due sorelle di mia madre, rinchiuse da tanti anni nel manicomio di Varsavia, non erano certo più pazze di me. Ed anche questo pensiero mi faceva ridere. E mi dicevo, io sono più furba di loro. Sono pazza come loro, ma nessuno se ne accorgerà. Non ho altra spiegazione. Non ho altra giustificazione. Ero pazza. E sapevo di esserlo. Talvolta nella notte mi svegliavo di soprassalto e il terribile pensiero di essere sola con me stessa, che ero pazza, mi gelava, mi irrigidiva di terrore. Allora m'alzavo e correvo per i silenziosi corridoi dell'albergo, fra tante file di scarpe che mi parevano piccoli mostri appiattati sulle porte con le bocche aperte, e su per lo scalone fino al quarto piano, dove era l'appartamento di Elisa e dei bambini. Aprivo la porta e chiamavo piano: Elisa! Sì, signora, rispondeva subito la Perrier, come se non dormisse mai. Vieni giù, Elisa! Sì, signora, vengo subito. E la sentivo scendere dal letto. Allora io tornavo correndo per i silenziosi corridoi e passando davanti alla porta del conte Kamarowski, sentivo come un brivido e dovevo fermarmi. Guardavo le sue scarpe gialle, calme e quadrate, con le bocche aperte e le lingue fuori, e provavo di lui e di loro un senso di paura e di esecrazione. Facevo una smorfia con le scarpe aborrite, poi correvo a rinchiudermi in camera ad aspettare la Perrier. Ella arrivava, pallida e arrabbiata nella sua vestaglia di lana rossa, con una cuffietta in testa, Sedeva accanto al mio letto e mi teneva la mano. Qualche volta mi leggeva ad alta voce un libro, qualche volta mi diceva delle poesie svizzere in tedesco o in francese, ed io mi calmavo ascoltando quella voce mite e sentendo la stretta della piccola mano ruvida intorno alla mia. A poco, una specie di furore d'odio contro Kamarowski mi invase. Ebbi la fissazione ostinata, continua, che dovevo liberarmi di lui, che dovevo fuggirlo ad ogni costo o morire. Le mie fibre si contraevano al più leggero contatto della sua mano. Avrei voluto non vederlo mai più, avrei voluto sapere che non era più al mondo. Era un furore cieco, istintivo, che io subivo senza ragionare. La mia preoccupazione fissa, costante, unica, era di sfuggire a lui e di aggrapparmi a Naumov. Nicola Naumov. Nicola Naumov, dicevo piano quel nome tutto il giorno e non mi pareva di poter respirare se egli non mi era vicino. Da parte sua, Naumov, timido e selvaggio, non osava credere a ciò che pure nei miei occhi leggeva. Non sapendo nulla della mia insana ossessione riguardo al vaticinio di Cairo, non sognando d'essere nella mia fantasia un salvatore inviatomi dal cielo, egli pensava che io volessi burlarmi di lui. Oppure credeva a un capriccio di donna frivola, avvezza ad appagare ogni passeggera voglia, allora si ritraeva, offeso e diffidente. E più egli si ritraeva, più io mi sentivo spinta a rincorrerlo, a trattenerlo, ad avvincerlo. Il suo giovane volto appassionato e grave mi deliziava, avevo sete della sua anima chiusa e sconosciuta, come di una fonte piena di misteriose dolcezze. La sua voce mi turbava, il suo silenzio mi sferzava i nervi, vivevo in un tremito continuo di rapsodica sensualità. Ero in queste disposizioni di spirito quando Kamarowski si decise a offrire un pranzo a tutti i suoi amici di Orel per annunciare loro il nostro prossimo matrimonio. A quel pranzo intervenne anche Naumov. Certo, egli già sapeva ciò che Kamarowski aveva da dire. Ma quando questi si alzò per parlare, tenendo con tranquilla aria di padronanza una mano sulla mia, Nicola Naumov impallidì. Io lo guardavo e un senso di profondo piacere mi invadeva, vedendo quel lento svanire del colore dal suo viso, così impallidito. Mi pareva bellissimo, mi pareva l'angelo della morte. Non intesi una parola di quanto Kamarowski disse. So che alla fine del suo discorso tutti applaudirono e risero, credo che ridessi anch'io. I commensali si levarono a felicitare Kamarowski e a baciarmi la mano, e su questa mano Kamarowski, con grande solennità, infilò un magnifico anello di brillanti rubini. Naumov solo non si era mosso dal suo posto, ma nel gaio mormorio che ci accerchiava nessuno se ne accorse. Egli fu tra i primi a lasciarci, scomparve senza salutare alcuno. Seguirono brindisi e discorsi. I camerieri, portando frutti e vini, andavano e venivano, lasciando aperta la porta del nostro salone. D'un tratto, alzando gli occhi, vidi sulla soglia, tra i battenti bianchi e dorati, un uomo che ci guardava. Era Prilukov. 32. Veramente non so se ne fui sgomenta o lieta. Già mi pareva di sognare. Da che avevo ricominciato a prendere cocaina, il crepuscolare senso di realtà scendeva come un velo azzurrino e vaporoso su tutti i miei sensi. Non distinguevo il vero dall'illusione. Prilukov era subito sparito, forse l'avevo sognato. Tuttavia mi alzai, tremando, e mentre molti degli invitati parlavano e ridevano ancora col loro ospite, io mi congedai dicendo che ero stanca. Con grandi evviva mi salutarono e Kamarowski, davanti a tutti, mi baciò in fronte. Col viso e il cuore in fiamme mi avviai verso le mie camere, grata al pensiero di trovarle buie e silenziose. Le tempie mi martellavano, il diadema di perle che Kamarowski mi aveva regalato mi pesava sul capo stanco, avevo nella nuca dei dolori lancinanti. Aprii la porta del mio salotto nella penombra, la veilleuse ardeva mitemente come una stella velata di vapore rosso. Nello sfondo vedevo aprirsi come uno sbadiglio nero l'uscio della mia camera da letto completamente buia. Ebbi la sensazione di non essere sola. Qui nel salotto c'era qualcuno. Un passo rapido s'appressò a me, un forte braccio mi cinse. Rotta dai singulti, la morbida voce di Nicola Naumov sussurrava: Maria, Maria, Maria, sono troppo infelice. Con un sospiro di infinita stanchezza che si fondeva in un infinito riposo, chinai la testa. Sul suo petto avrei voluto morire subito, così calma, sazia, appagata. Non avevo più nulla da chiedere, più nulla da desiderare. Ma lo spasimo che in me si dissolveva era entrato in lui. Esasperato e veemente, egli mi teneva avvinta in una stretta frenetica. Tu non devi sposare quell'uomo, non devi, non devi. E mi stringeva le spalle come se me le volesse stritolare. Dimmi che non l'ami, dillo, dillo. In quell'istante, sullo sfondo nero della mia camera da letto, comparve una figura, Prilukov. Ritto sul limitare, egli ci guardava. Naumov gli volgeva le spalle, ma io sopra l'omero di Naumov lo vedevo in faccia, a pochi passi da me. Agghiacciata, irrigidita, mi domandavo che cosa farebbe. D'un tratto, vidi che si muoveva, alzava lentamente il braccio destro, poi d'improvviso, incredibile cosa, spalancò la bocca e nulla mai ho veduto di più spaventevole di quell'uomo ritto nell'ombra con la bocca spalancata. Ma il braccio destro si muoveva ancora, si alzava lentamente, la mano era chiusa con gesto strano. Che cosa impugnava quella mano, ormai vicina a quella grottesca e terribile bocca spalancata? Tentai di urlare, ma nessun suono mi uscì. Dalla gola asciutta, ora gli vedevo il bianco degli occhi stralunati, rivolti in su. Ora la mano è ferma davanti alla bocca spalancata. Dalla mia gola uscì un rauco anelito. Aspetta, fermati, aspetta! Naumov, interdetto, credendo che dicessi a lui, rallentò la sua stretta. Che cosa c'è? Sussurrò. C'è qualcuno? Rigida come una sonnambula, io mi ritrassi dalle sue braccia, indietreggiando con gli occhi fascinati, sempre fissi su Prilukov. Quello stava immobile come una statua nel suo spaventoso atteggiamento. Naumov, ripeté piano, c'è qualcuno? Sì, non muoverti. Le parole si formarono senza suono sulle mie labbra, ma Naumov le lesse e mi obbedì, non si volse né si mosse. Sta fermo così, ansai, non muoverti. Poi, come una serpe, gli sgusciai di tra le braccia, fulminea, muta, mi slanciai su Prilukov, ricacciandolo indietro nella buia camera da letto, stringendogli il polso, conficcandogli le unghie nelle mani, coprendo il suo rapido anelito con la mia bocca. Il tappeto smorzava i nostri passi. Col gomito spinsi la porta che si chiuse pianamente dietro a me, poi mi volsi e in un baleno spinsi il catenaccio. Ero chiusa nella camera con Prilukov. Taci, taci, gli sussurravo sulla bocca, non farti sentire, non farti sentire. Egli ansava, fremeva e dalle sue labbra chiuse, soffocate, non usciva che una parola. Maledetta, maledetta. Taci, taci, taci! E gli coprì con la mano le labbra. Ti imploro, sono tua soltanto, non sarò mai d'altri. Giuralo, disse. E la sua voce ebbe un suono che si udì. Giuro, sussurrai. Ma già Naumov, dall'altra parte della porta, cercava di far girare la maniglia. Maria, Maria, che fai? Diceva. Apri, ma apri dunque! Prilukov teneva sempre la mano destra appoggiata alla sua tempia e io che vi cacciavo dentro le unghie sentivo anche il contatto freddo d'un metallo. Giura su Tioca che sarai mia, mia sola, mia per sempre. Giurai a bassa voce, rapida, mentre Naumov al buco della serratura sussurrava: Maria, Maria, sei lì. Giura su Tioca che li detesti tutti e due, che se io li ammazzo tutte e due sarai mia, ancora mia sempre. Giurai rapida e piano. Giura con me che li ammazzeremo tutti e due, giuralo, giuralo! Sentivo la sua mano vibrare più rigida contro la tempia, sentivo l'indice piegarsi a crocco sul grilletto della rivoltella. Giura! Sibilava Prilukov, o sparo subito! Allora giurai. Egli ripeté piano quelle parole con me, giuro che li ammazzeremo tutti e due. E dentro di me io dicevo, io sogno tutto questo. Non basta, ansava Prilukov. Giuralo su Tioca. E lo giurai su Tioca. Allora la mano che io stringevo si rallentò. Prilukov barcollò, cadde all'indietro, seduto sul letto, e Naumov dietro la porta si impazientì e scosse il battente. Io mi chinai su Prilukov. Starai fermo, non ti farai vedere, se apro non ti muoverai. Lo sentii ridere piano. Va, va, va, disse. Ed io aprii la porta. Perché sei fuggita? Chiese Naumov, prendendomi la mano. Io richiusi la porta dietro a me. Non avevo più paura di Prilukov. Non avevo più paura di nulla. Non avevo più voglia di nulla. Naumov mi serrò tra le braccia e io vi giacqui inerte come un piccolo cencio. E poi qualcun altro bussò alla porta d'entrata. Era Kamarovsky. La porta non era chiusa a chiave. Io rapida mi volsi e spensi la veglieuse. Naumov fece un passo avanti e girò la chiave nella toppa. Poi stette fermo, appoggiato all'uscio. Kamarovsky di fuori lo udì e, credendo che fossi io, mormorò con voce dolce: «Buonanotte, buonanotte, adorata!» Io allora fui presa da un attacco convulso di risa. Risi, risi, scossa da capo a piedi da un folle parossismo di ilarità. E non potevo smettere. Ridevo, ridevo, e il riso diveniva spasimo per tutto il mio corpo. Battevo i denti, tremavo e sussultavo, ma l'isterico riso continuava a scuotermi tutta come un alberello è crollato da una mano brutale. Ridevo, ridevo, ridevo, forzandomi a ridere piano perché quei tre uomini fermi nell'ombra non mi udissero. Il pensiero di quei tre uomini immobili dietro le porte mi faceva ridere di più, le lacrime mi correvano per la faccia, il cranio pareva mi si dovesse spaccare, ma a cozzi, ad urti, a sobbalzi, il riso mi scuoteva ancora finché mi parve che dentro di me tutto si lacerasse. Barcollai, poi mi lasciai scivolare sul tappeto. Con un caldo urto dal più profondo del mio essere sgorgò l'emorragia. Naumov si chinò su di me, sentii le sue mani di acce percorrermi il viso, poi rimanemmo silenziosi nel buio. Lentamente e a malincuore i passi di Kamarovsky si allontanarono per il corridoio. Allora trovai ancora la forza di dire a Naumov: «Va, manda Elisa, presto!» Naumov ubbidì. «Sì, Nicola Naumov, mansueta anima, ha sempre ubbidito.»